Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, abbiamo concluso domenica scorsa la lunga tornata elettorale con il voto per le amministrative, per le europee, per il referendum ed è interessante capire come è cambiata la geografia politica anche alla luce appunto di questi ultimi risultati elettorali. Ci può aiutare il libro di Ilvo Diamanti, Mappe dell'Italia politica, bianco, rosso, verde, azzurro e tricolore. È pubblicato dal Mulino, 256 pagine, 16,50 €. Ilvo Diamanti è un noto studioso di scienza politica, di comunicazione politica all'Università di Urbino, noto anche a un largo pubblico per le sue collaborazioni giornalistiche e per le sue analisi sulla società e la politica italiana. E adesso aggiorna, con questa edizione di cui vi sto parlando, un suo studio, che era uscito per la prima volta, mi sembra, nel 2003, e su un tema che da allora è andato profondamente modificandosi, cioè il rapporto tra i partiti e il territorio. Non è un tema da poco, è un tema tutt'altro che specialistico, perché riguarda il modo stesso di far politica e le dinamiche che poi spiegano anche i risultati elettorali, quelli che abbiamo letto in queste settimane. Pensate per esempio al radicamento che si è rafforzato in questi ultimi anni, il radicamento territoriale di partiti come la Lega, o pensate anche al radicamento del vecchio Partito Comunista nelle cosiddette regioni rosse, che ancora condiziona molto le prospettive elettorali del Partito Democratico e in fondo abbiamo avuto una riprova di questo radicamento nei risultati di Bologna e di Firenze. Oggi questo rapporto tra la politica e il territorio sta cambiando di nuovo e con esso le prospettive della politica e appunto Diamanti aggiorna alla luce di queste modifiche con un lungo capitolo finale questo libro che ci fa leggere l'Italia politica invece alla luce dei risultati del 2008. Facciamoci spiegare da Ilvo Diamanti come cambia questo rapporto. Buongiorno a Ilvo Diamanti. Buongiorno, buongiorno. Professor Diamanti, lei indica nel suo libro due fenomeni recenti, la presidenzializzazione della politica e soprattutto dei partiti e il forte sentimento di antipolitica che si sta consolidando nell'opinione pubblica. Ecco, questi due fenomeni che sono esplosi dal 2006 soprattutto, come stanno contribuendo a modificare il rapporto tra la politica e il territorio? Ma in una certa misura nascono nello specifico italiano almeno ancora 20 anni fa, comunque all'inizio degli anni 90, sono una sorta di risposta alla crisi dei partiti di massa, che di massa come in Italia non esistevano da nessuna parte, nel senso che anche altrove c'erano partiti di massa, ma non partiti così incardinati nella società e così identificati nello Stato. Il vuoto che lascia la crisi dei partiti di massa produce un'immediata ricerca di soluzioni di tipo personalizzato, anzitutto a livello di istituzioni locali, cioè la prima risposta alla legge del 93 sull'elezione diretta dei sindaci, quasi a voler saltare su base locale la mediazione dei soggetti politici. Poi via via si estende altrove. È evidente che in Italia, sempre per parlare di uno specifico italiano, questo processo ha la sua originalità e la sua moltiplicazione nell'ingresso sulla scena politica di Silvio Berlusconi e del suo partito, che almeno in una prima fase è quello che viene definito da Mauro Calise un partito personale. E questo tipo però di specifico italiano si congiunge a tendenze che sono internazionali, cioè in realtà un po' dovunque a livello internazionale noi assistiamo a questi processi di mutamento della democrazia che vengono definiti e riassunti con la formula presidenzializzazione, cioè detta in breve la concentrazione dei poteri nel capo dell'esecutivo, del governo, la di fatto personalizzazione dei partiti e la trasformazione dei partiti in macchine al servizio di un leader, candidato a sua volta presidente, capo dell'esecutivo. E infine la costruzione di una scena politica che si riassume nella scena mediatica e al centro della quale ci stanno il capo dell'esecutivo e il presidente o il leader del partito. Cioè in Italia, questo è un po' il problema italiano, tre processi che sono ricongiunti e si ricongiungono in una sola persona. Quanto all'antipolitica, anche questa è una tendenza di medio-lungo periodo. In Italia è dalla fine degli anni 80, dei primi anni 90, che siamo in un clima di antipolitica che allora a sua volta, se non la vogliamo riassumere in una parola ideologica, la possiamo tradurre in insoddisfazione dei cittadini nei confronti degli strumenti e dei mezzi di partecipazione e di rappresentanza, quindi della democrazia rappresentativa, quindi dei partiti e quindi di ciò che hanno rappresentato a lungo i partiti in Italia, cioè lo Stato e tutto quanto. Nell'indebolirsi di questo legame col territorio, lei a un certo punto parla di una tendenza, dice che i partiti diventano tricolori. È diventato tricolore perfino la Lega, mi pare. È vero. Qui oggi noi ci troviamo in una fase nella quale il territorio conta, però se noi facciamo riferimento, come dice giustamente lei, ai partiti che più di tutti oggi hanno denunciato e dichiarato il loro rapporto e legame con il territorio, e pensiamo alla Lega, vediamo che siamo in una fase di superamento del passato, cioè il passato dell'Italia è un passato di partiti che hanno colori specifici, cioè regioni politiche molto definite, il rosso delle zone rosse della sinistra, il centro Italia, il bianco della Democrazia nelle province del nord, il verde della Lega che in buona misura sostituisce la Democrazia Cristiana del nord. Oggi noi siamo in una fase quantomeno di cambiamento, il territorio si ridisegna, i partiti tentano di superare i limiti dei loro specifici colori, diventano tricolori, in questo modo volevo indicare i due cartelli, i due partiti cartello, il Popolo della Libertà e dall'altra parte il Partito Democratico, e invece assistiamo anche a una sorta, non dico di tricolorizzazione, ma per ora bicolorizzazione anche della Lega, che non è più solo verde ma si sta insinuando oltre il Po nelle zone rosse. Il fatto che sia il Partito Democratico quello che si tricolorizza meno può avere delle conseguenze sulle prospettive di questo partito? Ha dei problemi di cui sono evidentemente consapevoli i leader del centrosinistra del Partito Democratico. Cioè, dopo il tentativo del 1994 con la coalizione dei progressisti che teneva dentro le sinistre di presentarsi da soli, e soprattutto i post-comunisti, allora PDS, sono assolutamente consapevoli della necessità, come dire, di recidere i legami col proprio passato. Non è un caso che già nel 1995 venga scelta anche con il loro sostegno una figura non di tradizione comunista, anzi, e non immediatamente politica, come Prodi. Da allora in poi continua questo tentativo, come dire, di sfuggire al proprio passato, di in qualche modo, se non recidere le proprie radici, di indebolirle, di andare oltre i loro confini, il che diventa e risulta fino ad oggi molto difficile, con un problema ulteriore che come dire, a ridimensionare la zona rossa sembra stia contribuendo la Lega. Certo, la sua analisi si conclude al 2008, le elezioni europee hanno portato qualche accenno di cambiamento? Io attribuisco alle elezioni europee sempre un significato relativo dal punto di vista del legame tra politica e territorio, perché le elezioni europee teoricamente sono rivolte a un territorio molto più ampio che l'Europa. Due, perché comunque dell'Europa agli elettori italiani non gliene frega praticamente nulla, ma per cui votano su base nazionale. Però tre, nel momento in cui votano su base nazionale sono consapevoli che le conseguenze del loro voto su base nazionale saranno istituzionalmente molto relative, per cui si vota in modo molto più libero, votano molto meno elettori, diciamo, hanno votato 2/3 degli elettori. Direi che se vogliamo individuare e indicare un vero specifico di questo dal punto di vista del legame col territorio è proprio, direi, questa sorta di allargamento della Lega, che diventa un partito nazionale. o tende a nazionalizzarsi da un lato, ma questo era abbastanza evidente anche in precedenza, e il secondo è questa difficoltà effettiva del Partito Democratico a riunire il centro-sinistra. Era nato per questo, mi pare molto difficile oggi questa impresa. Grazie a Ilvo Diamanti, autore di Mappe dell'Italia Politica. Grazie, grazie a lei, dottor Carruba, e agli ascoltatori di Radio 24. Una testimonianza interessante sul rapporto tra la politica e il territorio è quella di Marco De Marco, che è un giornalista napoletano, direttore del Corriere del Mezzogiorno, ex vice direttore dell'Unità, quindi non certo sospettabile di simpatie di destra, il quale ha pubblicato con guida Bassa Italia, l'antimeridionalismo della sinistra meridionale, 206 pagine, 12 euro. Qui un meridionale, appunto di sinistra, osserva la prevenzione che ormai accompagna il giudizio sul Sud, che rende urgente, secondo l'autore, un'autocritica, così lui stesso la invoca, meridionale. I meridionali si appigliano a tanti alibi e a tante forme di autoindulgenza per superare queste critiche, ma in realtà, scrive De Marco, perché non fare i conti con le ombre del meridionalismo? Perché negare la sua parte oscura, le sue derive, i suoi tempi morti, le sue fughe inconcludenti, i suoi vagheggiamenti antimoderni? L'antimeridionalismo, insomma, secondo De Marco, è anche a sinistra. E perché questo? Beh, perché c'è anche nella sinistra, scrive, una riserva, in passato esplicita, poi più o meno malcelata, leggo dal suo libro, nei confronti della plebe, dei contadini, del sottoproletariato, dei marginali, delle periferie urbane, della borghesia piccola, in altre parole, del popolo minuto. E poi insiste su questo concetto quando scrive: gran parte del pregiudizio antimeridionale si genera proprio dal deficit di analisi da parte della sinistra della questione popolare. Il popolo, insomma, o ha sempre torto perché vittima del proprio atavismo, o ha sempre ragione perché oggetto di sempreverdi visioni classiste. L'assenza di un'analisi realista ha finito per indebolire ogni ipotesi riformista. Fin qui l'autore. E qui nel libro troviamo la storia e l'analisi di questo rapporto difficile, a partire da un giovanissimo Gaetano Salvemini fino alla cattiva politica delle giunte di sinistra di oggi, i cui effetti devastanti per l'intera politica nazionale sono così riassunti da De Marco. Nel secondo dopoguerra, in un paese ancora diviso, le amministrazioni di sinistra, tutte concentrate nell'Italia di mezzo, ebbero una funzione sostanzialmente unitaria. Nell'Italia di oggi, in un paese dall'identità più marcata e potenzialmente più unito, le nuove amministrazioni di sinistra, quelle concentrate nel Mezzogiorno, rischiano di svolgere una funzione diametralmente opposta, di divisione e non di unificazione. Perché? Con molta probabilità perché sindaci comunisti come Giuseppe Dozza e i suoi successori, dimostrando a tutti che i rossi non solo non mangiavano i bambini, ma sapevano anche bene amministrare, legittimavano di fatto, su scala nazionale, l'intera sinistra di opposizione. Mentre invece i Bassolino, i Loiero e i Vendola, avvalorando l'idea di un sud sprecone, assistito e incapace di risollevarsi, vanificano, pur con i dovuti e rivendicati distinguo, ogni speranza palingenetica. O confermano i dubbi di chi, per il Mezzogiorno, questa speranza non l'aveva mai coltivata. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Domani è la festa dei Santi Pietro e Paolo. Auguri a tutti Pietri, Paoli, Pierine, Paole. E in questa occasione vi voglio segnalare un doppio libro di una delle figure più titolate per parlare di San Pietro, e cioè l'arciprete della Basilica Vaticana che è dedicata a San Pietro, il cardinale Angelo Comastri, il quale pubblica con San Paolo due volumi in cofanetto intitolati Il primo ti chiamerai Pietro, autobiografia del primo Papa, 126 pagine, e il secondo San Pietro in cammino verso la tomba dell'Apostolo, 118 pagine, 23,50 euro. Il primo volume racconta la vita di San Pietro attingendo ai testi evangelici, agli Atti degli Apostoli e a molte testimonianze successive risalenti spesso ai primissimi secoli della vita della Chiesa. Il secondo invece ci presenta la Basilica e ce la presenta passo passo, potremmo dire, con il Cardinal Comastri, che ci accompagna a scoprire con questo volume illustrato, molto chiaro, divulgativo, questa Basilica, questo enorme edificio ricchissimo di particolari che spesso sfuggono a una visita frettolosa. Un edificio sacro che è di grandissimo significato per chi crede, ma che è uno scrigno di tesori artistici per tutti. E ho chiesto a Marco Carminati di indicarci in questo percorso qualche sorpresa, qualche chicca meno nota. Buongiorno a Marco Carminati. Ciao Salvatore. Sì, in effetti la Basilica di San Pietro è davvero uno scrigno incredibile di opere d'arte. È talmente vasta ed è talmente ricca che forse è difficile andarle a cogliere. Allora vorrei suggerire qualche passaggio, qualche punto su cui soffermarci. La basilica, così come la vediamo noi oggi, fu cominciata al principio del Cinquecento, naturalmente sulle rovine di una basilica molto più antica e tra l'altro straordinariamente illustre. Tanto per dirvi, era decorata di cicli di affreschi di Giotto ed era ricchissima di opere d'arte. Cosa si è salvato di questa prima basilica? Ecco, appunto, entrando nella nuova San Pietro, proprio la porta principale della basilica nell'atrio è un pezzo che deriva dall'antica basilica. Si tratta di una porta molto importante in bronzo, modellata dal Filarete, un grande scultore architetto fiorentino. Questa porta, che illustra naturalmente le figure di Cristo, di Santi Pietro e Paolo, ha la cosa più curiosa però all'interno. Bisogna entrare nella basilica e andare dietro alla porta. Dietro non ci sono decorazioni, solo in basso si vede una singolarissima scena con un architetto che sta ballando e dietro l'architetto ci sono tutti i suoi assistenti che ballano insieme a lui. Questo è il ballo del Filarete, cioè lì c'è la data finale dell'opera, 1455, e come per esprimere la gioia di questa fatica immane, perché fondere una porta in bronzo era davvero una fatica terribile, il Filarete e i suoi allievi decidono di ballare per festeggiare la fine dei lavori. Poco più avanti, nella navata di sinistra, arrivati al secondo pilastro e guardando a destra, si vede un altro monumento bellissimo in bronzo che deriva anche questo dalla vecchia basilica. Si tratta del monumento funebre di Papa Innocenzo VIII. Ora, questo monumento, che è un capolavoro del pollaiolo, ha una particolarità davvero singolare. Oltre ad essere molto importante perché il Papa è rappresentato due volte, in trono e anche giacente, e se osservate la statua del Papa, vedete che in mano ha una lancia. Che cos'è questa lancia? Questa lancia è una reliquia importantissima. È la lancia di Longino, quella che il centurione romano usò per forare il costato di Cristo. Bene, questa lancia era fino a quel momento di possesso del sultano di Costantinopoli e il Papa riuscì a riscattarla, quindi volle addirittura essere effigiato in trono, non con una croce, non con un pastorale, ma con la lancia di Longino in mano. Ma la cosa più singolare si trova in basso. La lapide, che brevemente racconta la vita di questo Papa, e nella quale si dice a un certo punto che questo Papa è insigne perché sotto il suo pontificato è stato scoperto il nuovo mondo. Infatti il Papa morì alla fine del 1492, quindi fece in tempo ad essere il pontefice in carica al momento della scoperta del nuovo mondo. E questa lapide è una delle prime, forse la prima documentazione ufficiale della scoperta di Colombo, del ritrovamento delle Americhe. La Basilica Vaticana sorge al limitare di un quartiere romano molto noto, vivo e popolare, Borgo Pio, che fu sventrato in parte per costruire Via della Conciliazione. Ma nonostante questo è rimasto un quartiere vitale e vivace e ci invita a ripercorrerlo il libro di Paolo Mosca, un giornalista e scrittore famoso, che ha scritto Il ciabattino del Papa e altre storie, I piccoli miracoli di Piazza San Pietro, pubblicato da San Paolo, 324 pagine, 17 euro. Qui abbiamo una serie di ritratti, in altri tempi si sarebbe detto di bozzetti, di luoghi e personaggi che gravitano intorno a San Pietro. Di nuovo, non occorre essere credenti per avere interesse verso un mondo spesso un po' misterioso che non è racchiuso soltanto nelle mura della città leonina, ma che ha propaggini molto umane e concrete nelle vie adiacenti, dove troviamo panettieri, osti, artigiani, sarti, ciabattini, fiorai, tappezzieri, giornalai, tintori, fabbri e tanti altri artigiani e figure varie che più o meno silenziosamente, più o meno ufficialmente hanno a che fare col Vaticano e con la corte pontificia. E di questo mondo che brulica intorno alla corte pontificia abbiamo qui un ritratto affettuoso. Restiamo nell'ambito dei percorsi di ispirazione religiosa con una guida d'Italia decisamente insolita. La guida alle messe di Camillo Langone, pubblicata da Mondadori, 314 pagine, 15 euro. Questa è una autentica guida, come i ristoranti, trovate il numero di candele e il numero di messali che misurano la qualità dell'arredamento e la qualità liturgica delle messe vere e proprie. Langone scrive nella sua introduzione che se una messa riesce a catturare i sensi anziché respingerli, lo spirito che in essa si incarna si approfondisce in noi, e per questo hai andato alla ricerca per tutta l'Italia delle messe più belle, delle messe più suggestive, quelle più fedeli alle regole della liturgia. Denuncia nel suo libro gli arredi sciatti, le messe senza passione, ma trova molti servizi religiosi appassionanti ed edifici curati molto bene. Troviamo quindi in questa guida di Langone le messe più belle, le messe in latino, le messe che invece si rifanno agli eterni anni 70 usando chitarre e tamburelli, che naturalmente a lui non piacciono, ma neanche a me, le messe mediatiche, cioè le chiese al plasma, le messe ospedaliere, le messe brutte ma buone, cioè buone messe in brutte chiese, e le messe belle e cattive, cioè cattive messe in belle chiese, e tante altre categorie. Insomma, questa guida è anche uno strumento per riscoprire chiese e basiliche, ma anche espressioni liturgiche che sono esse stesse testimonianze di una storia e di una cultura. E a questo punto togliamo gli ormeggi e andiamo in Sardegna, precisamente in provincia di Nuoro, a Gavoi, dove giovedì 2 luglio si inaugura la sesta edizione del Festival Letterario della Sardegna, organizzato dall'Isola delle Storie, con tanti appuntamenti con scrittori, scrittrici, ragazzi che partecipano attivamente e appuntamenti anche d'arte. A proposito di Sardegna, restiamo proprio da quelle parti con l'ultimo volume di Sebastiano Niffoi, che si intitola Il paese di Abele, è pubblicato da Adelphi, 168 pagine, 18 euro. Questa è la classicissima storia del triangolo di due amici che amano la stessa donna, ambientata questa volta nella Sardegna del dopoguerra. È ancora una Sardegna chiusa, isolata, tradizionale, della cui cultura è espressione Zosimo, che rimane legato appunto a tutte le abitudini contadine e pastorali della propria famiglia. L'amico del cuore lascerà la Sardegna, farà carriera, e sul finire del romanzo le loro due vite, tenute insieme dalla stessa donna, Columba, avranno un epilogo drammatico. Niffoi nel libro rende molto bene l'evoluzione e la maturazione dei personaggi dall'infanzia fino al maturare della crisi, la trasformazione di una società e insieme il perdurante ancoraggio a una cultura antica che si esprime anche nell'utilizzo di qualche parola in lingua sarda, opportunamente tradotta alla fine del libro. E a questo proposito, sempre Salvatore Niffoi pubblica ancora con Adelphi Parainas, Detti e parole di Barbagia, 82 pagine, 5,50 euro. Questa è una raccolta preziosa di espressioni barbaricine, anch'esse utili per cogliere ancestrali tradizioni e fulminanti sintesi verbali, per esempio questa: a proposito dell'arte della scrittura, noer mancus arte de scrivere, non è neanche l'arte dello scrivere, che vuol dire che il lavoro è davvero semplice in questo caso, chiunque può portarlo a termine, perché si tratta di una cosa ancora più facile che non lo scrivere. E a questo punto il confettino. Vi segnalo di Shel Silverstein L'Afcadio, il leone che mirava in alto, è pubblicato da Orecchio Acerbo, 112 pagine, 20 euro, e tradotto da Elena Fantasia. L'autore è un famoso scrittore americano, e non solo, perché fu anche musicista, suo per esempio la colonna sonora del film Thelma e Louise, illustratore, e morì nel 1999 e scrisse dopo questo libro, che ebbe un enorme successo, tanti libri per bambini, a cominciare dal 1963. Libri per bambini che hanno per protagonisti un personaggio diventato celeberrimo presso i bambini americani, lo zio Shelby, che qui racconta la storia in italiano e in inglese, una storia naturalmente illustrata, di un leone goloso di marshmallow, appunto l'Afcadio. E con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Filippo Auregi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Passo la linea a Respiro, vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.